Io giro semplicemente a Piero Scaramucci il microfono. Bisognerebbe partire da quest'ultima osservazione che faceva Lucarelli, il muro di gomma, e chiedersi perché. Una serie di notizie escono, ci sono, circolano e non producono conseguenze. Questo è una cosa straordinaria. Ci sono notizie esplosive, gente che ha rubato, che ha complottato. Poi una sbrullata, un cane che esce dalla sbrullata, tutti come prima. Evidentemente c'è un contesto molto diverso da quello che c'era negli anni 60, 70, 80, ma soprattutto 70. C'è un contesto molto diverso, e cioè le notizie che la controinformazione riusciva a produrre erano vissute da una parte della popolazione come strumenti per agire, per fare qualcosa. Informazioni è rendersi conto, capire, quindi in qualche modo orientare il proprio comportamento. Evidentemente oggi è un po' diverso. Le notizie che si hanno, ma ieri sera anche nella discussione che hanno fatto Lucarelli e Giannulli a Radio Popolare, veniva fuori anche la proposta al CUNSO, oggi la controinformazione dovrebbe essere per esempio molto sul terreno scientifico, eccetera, cosa giustissima, perché sul terreno scientifico c'è un'infinità di elementi importantissimi per la nostra vita che vengono ignorati o la cui conoscenza non viene colta, apprezzata. Le notizie circolano, ci sono, ma non riescono a produrre conseguenze. Questo muro di gomma, come chiamava Lucarelli, in qualche modo viene da qualche parte, non nasce improvvisamente. E forse, leggendo questo libro, credo che si coglie una parte perlomeno del percorso che ha portato a questa situazione. E è un libro molto bello perché racconta cose, fatti, e tenta anche delle analisi politiche, delle analisi di quadro, cercando un po' di collocare i vari processi. Si parte dalla Strage di Stato. La Strage di Stato è un libro che esce nel giugno del 1970 ed è il primo documento organico che dice una sua verità sulla strage di Piazza Fontana il 12 dicembre San Marco. Quindi 6 mesi dopo esce questo libro, che è frutto di lavori complessi, di documenti anche trovati, lavoro di militanza, ma anche probabilmente qualche contributo istituzionale arrivato sott'acqua. Fatto sta che esce questo libro e dal titolo stesso, Strage di Stato, dà una lettura che sarà poi quella definitiva a quello che era successo in Piazza Fontana 1269. Mentre ancora le istituzioni correvano dietro agli anarchici, tenevano in galera Valpreda, dicevano che l'anarchico Giuseppe Pirelli si era buttato dalla finestra della questura di Milano al grido della fine dell'anarchia, e quindi ancora il quadro istituzionale si muove in questa direzione. Una serie di giornalisti sicuramente avevano già cominciato a mettere fortemente in dubbio questa tesi, ma questo libro, La Strage di Stato, esce da questa lettura organica di un altro panorama. Da lì in avanti si svilupperà questo lavoro di controinformazione, che è il lavoro che la militanza della sinistra mette in opera per riuscire a capire le cose che succedono e per riuscire a trasmettere informazioni all'esterno. È uno strumento di lotta la controinformazione. È uno strumento politico. È vero che poi prende la fisionomia del controspionaggio, se vogliamo, come dice Giannulli, ma bisogna ricordarsi che era fondamentalmente uno strumento politico e viveva alimentato dalle consapevolezze e dalle conclusioni politiche dei gruppi politici di riferimento. In altre parole, serviva alla militanza per fare lotta politica, muovendosi in una, su un terreno che andava conosciuto sempre bene. Come funziona la controinformazione? Funziona collettivamente, nel senso che si diceva la controinformazione ha mille occhi e mille orecchi, perché ogni militante, ogni compagno, ogni aderente a un gruppo piuttosto che un altro, raccontava e centralizzava tutti gli elementi che aveva raccolto sul territorio, al bar, nel suo ambiente di lavoro, in ufficio, da una confidenza, tutti gli elementi che potevano presumibilmente essere utili. Questo è un lavoro che nessun altro, nessun servizio di controspionaggio ha la possibilità di fare su questa scala. Perché se in un'azienda a un certo punto si cominciava a produrre una certa cosa che poi andava venduta a qualcun altro, che poi poteva essere utilizzata in qualche modo, questa notizia arrivava. Come poteva essere utilizzata? Quali strumenti? Beh, tutti quelli che facevano i conti di formazione erano degli apprendisti stregoni. Erano dei ragazzi che avevano fatto militanza, scelte politiche, facevano militanza politica, facevano i cortei, facevano le assemblee, facevano gli sciopero, facevano quello che c'era. Non avevano nessuna esperienza di questo genere. C'era forse qualche giornalista, ma un po' però. L'esperienza si crea sul campo, diventa esperienza politica. Per questo io insisto sul fatto che la controinformazione è lavoro politico che diventa lavoro di intelligence, ma nasce e si sviluppa e nei suoi momenti migliori è lavoro politico. Nessuna tecnica di controspionaggio può essere paragonata a una controinformazione di massa nei termini in cui si è sviluppata negli anni 70. In Italia. Che cosa c'è alle spalle? Non c'è tecnica. Alle spalle c'è la consapevolezza politica, c'è una formazione politica. E questo è abbastanza importante e poi all'origine di enormi successi e anche discreti fallimenti. C'è la formazione politica nel senso che il militante che lavora alla controinformazione è ricco di una analisi politica della situazione. È l'analisi politica che permette poi di collocare i vari tasselli che si ricevono in un quadro coerente e diciamo con qualche significato. Perché altrimenti possono essere anche frammenti sparsi che è molto difficile collocare per ricavarli insieme. Ed è quindi la formazione politica, l'analisi politica che presiedono al meccanismo della controinformazione e all'utilizzo dei dati. Uno degli elementi fondamentali che percorrono tutta la storia di controinformazione è quello del colpo di Stato, del golpe, dell'autoritarismo, della tendenza alla soppressione delle libertà democratiche, un lungo filone che si snoda. Devo dire che tornando a rileggere con qualche attenzione una serie di elementi che erano stati raccolti in quel periodo, che erano stati messi in evidenza, credo che si coglie una costante nella storia italiana. Nella storia italiana di questi ultimi 60-70 anni. Ed è quella di una fatica tremenda da parte delle elite politiche e economiche a sopportare il meccanismo della democrazia. I pretesti per questa freddezza, ostilità, i pretesti sono molti. Nel dopoguerra c'è la questione di tenere l'Italia fuori dal blocco sovietico, c'è la guerra fredda, il confine passa nell'Adriatico, la Jugoslavia, poi l'Italia. Il Partito Comunista non può in Italia andare al potere neanche, anzi, neppure con le dinamiche avanti tutto, il bandito Giuliano, la strage portella da Ginestra, e anche lì lo Stato agisce in modi terrificanti, diciamo oggi, per reprimere e impedire le vicine sindacalisti uccisi in Sicilia. E poi negli anni 60, quando c'è una ripresa della lotta operaia, della consapevolezza operaia, lo sviluppo di un'identità di sinistra più forte, i progetti di golpe, i progetti di trasformazione. Adesso non sto a dettagliare tutta la storia per l'amor di Dio, concludo dicendo che in quel periodo, in tutto questo arco di tempo, si seminano progetti di golpe, progetti autoritari e progetti comunque di una gestione, mi viene in mente Gelli e la P2, di una gestione del potere che stringa, costringa, strizzi la dinamica democratica e in qualche modo, sia pure con una parvenza di democrazia, mette in atto un sistema di controllo più forte da parte dei poteri. E allora si parlava, pensate un po', come di una minaccia del maggioritario sul piano elettorale. Poi oggi credo che il maggioritario sia passato come una soluzione democratica. Ci troviamo addirittura in una situazione di non poter esprimere le preferenze elettorali, non sono dettagli. Ma rileggendo il progetto di Gelli, ci sono dentro di queste cose, il maggioritario, il presidenzialismo, il controllo dei media e tutto quanto, per c'è anche il ponte di Messina. No, è divertente perché ci sono una serie di meccanismi che hanno portato poi alla situazione di oggi, una situazione per carità aperta, tutt'altro che repressa e chiusa, ma comunque è una situazione nella quale le persone, molte persone, si sono spogliate dell'idea di poter in qualche modo partecipare alla gestione della vita collettiva, per cui anche le notizie più esplosive che li raggiungono sembrano non sortire effetto. Come andrà a finire poi, non lo so. Grazie Piero Scaramucci. Io prima